13. La produzione di gnome e trom fino alla Seconda Guerra Mondiale. Dal 1922 al 1940, gli ingegneri e i tecnici di gnome e trom migliorarono continuamente le prestazioni e l'affidabilità dei motori radiali fissi. Le tecniche di lavorazione e di controllo beneficiarono della produzione in serie, che si sviluppò alla fine della Prima Guerra Mondiale. I materiali furono adattati alla durata di vita sempre più lunga richiesta ai motori. Nel giro di una quindicina d'anni, la potenza e la durata di vita dei motori furono triplicate. Il motore gnome e trom 14M esposto davanti a lei, così come il 14R, dominarono il mercato dell'aviazione militare. Essi trovarono anche un posto di rilievo nella nascente aviazione civile e nel trasporto aeropostale.